in primo piano. Giovedì 27 maggio, la manovra il giorno dopo la presentazione e dunque anche qui il trionfo di tutti i titoli. Parte la stretta sull'evasione per il Sole 24 Ore. Ah, tra l'altro, Sole 24 Ore che oggi vi annuncio esce con un inserto speciale che potete chiedere gratuitamente in edicola sui 100 anni di Confindustria, il centenario di Confindustria, l'inserto speciale Imprese d'Italia, tra l'altro nel giorno in cui c'è l'assemblea di Confindustria che dalle 10.30 Radio 24 trasmetterà in diretta. E allora parte la stretta sull'evasione per il Sole 24 Ore, mentre il Corriere, la parola chiave è questi, sacrifici. Berlusconi, sacrifici sono necessari. C'è chi mette indispensabili come Repubblica e La Stampa. Vediamo un po'. Un giorno da poveri. Tremonti e Berlusconi tratteggiati su Libero in prima pagina. Il giornale La rivolta delle caste. Poi vediamo un altro titolo se c'è. Sì, Il Riformista. Il portavoce, che sarebbe Berlusconi, la frase di ieri di un ministro citata dal Corriere, Berlusconi farà il portavoce della manovra di Tremonti. Ma vediamo, ci sarà tema anche su questo. Allora, i sacrifici sono indispensabili, così ha detto Berlusconi, ma niente tasse. Oggi è il giorno della protesta, il giorno delle proteste sui giornali. Le caste già in rivolta contro i tagli, per esempio a pagina 4 del giornale, i sacrifici vanno bene, ma solo quelli degli altri. Davanti alla dieta Tremonti i privilegiati urlano e strepitano, ma il vero problema è un altro, la manovra non riduce abbastanza le spese strutturali, cioè lo Stato sociale, scrive Vittorio Feltri. Per capire che è il giorno delle proteste, Gian Antonio Stella fa in prima pagina del Corriere della Sera un editoriale, il partito dei riottosi. A tutti gli italiani chiamati a stringere la cinghia, Pier Carmelo Russo fa ciao ciao. Come dimostra il sito livesicilia.it, è andato in pensione da dirigente della regione Sicilia con 6.462 euro netti al mese a 47 anni. Grazie a una leggina isolana doveva badare al papà infermo, cosa che non gli ha impedito giorni dopo di assumere il gravoso incarico di assessore all'energia. 1.000 chilometri più a nord, i sindaci trentini, fallito il tentativo di avere la pensione, si apprestano ad avere un aumento in busta paga del 7% e i loro colleghi altoatesini non hanno alle viste alcun taglio. Quello di Appiano prende 9.400 euro, cioè più di Letizia Moratti a Milano, quello di Lana 7.000, più di Rosa Russo Iervolino a Napoli. Quanto alla giunta comunale di Gorizia, appena tentato di autoridursi la indennità ed è stata bloccata dalla regione. Non potete farlo. E si chiede, Stella, cosa c'entra tutto questo con la manovra da 24 miliardi, che poi è 25 perché è 24,9, se hai capito, c'entra. Come ha spiegato Tremonti, di questi tempi, i grandi numeri si fanno anche con i piccoli numeri. E allora, è il giorno della rivolta, tutti che si ribellano, sacrifici minimi per i partiti, per esempio ci fa sapere il Sole 24 Ore. Allora, Italia, la politica, si diceva, il 10% è stato deciso, 10% di tagli ai ministeri, 10% di rimborsi, anche elettorali. Attenzione, perché questa è una novità, cioè si parlava di un taglio dei rimborsi elettorali ai partiti del 50%, ora i partiti prendono un euro per ogni persona, ognuno di noi italiani, iscritti nelle liste per votare. Attenzione, non di quelli che votano, iscritti nelle liste elettorali. Anche se tu, caro signore che ci ascolti o signora che ci ascolti in macchina, non vai a votare, il tuo eurino per rimborso ai partiti lo dai comunque. Un euro per la Camera, un euro per il Senato, un euro per le regionali, un euro per le europee. Fanno 4 euro a cranio di persone iscritte nelle liste elettorali che vanno ai partiti. Dovevano diventare 50 centesimi, quindi ridurre del 50%, la riduzione invece del rimborso elettorale cala al 10%, dunque saranno 90 centesimi, questo nell'ipotesi, da un euro a 90 centesimi a persona per 4. Camera, Senato, europee, regionali. La cosiddetta casta per eccellenza, cioè i politici, appunto, si ribellano. Per esempio, Rocco Girlanda, deputato del PDL, riformista, dice: ora farò outing, metterò sul mio sito quello che guadagniamo, cifra per cifra. Sto raccogliendo tutti i documenti perché sulla rete, su internet, si leggono falsità incredibili, 30.000 euro al mese, teatri gratuiti, servizi gratuiti. Non è vero. La risposta vera è che io guadagno come parlamentare 5.000 euro al mese netti. Questo è lo stipendio. Poi ci sono altre voci che riguardano il sostentamento, il rapporto tra eletti e elettori. Ma dice Rocco Girlanda, anche i dipendenti di un'azienda hanno le spese pagate e vanno in trasferta. Io quando posso prendo il treno, torno a casa, però ho l'albergo da pagare. Certo, i viaggi sono gratis, se ci sono da fare dei tagli si tagli, ma basta questa delegittimazione a dire guadagniamo 20-30 mila euro al mese. Guadagniamo 5 mila euro netti al mese. Metterò tutti i conti sul mio sito internet. Rocco Girlanda, deputato, segnatevelo e controllate il suo sito internet. Come detto, la CGIL in trincea, pronti a scioperare, i magistrati in trincea, misure non sostenibili. Formigoni rappresenta le regioni e dice: misure incredibili e sbagliate, manovra squilibrata che mette a rischio il federalismo fiscale. E poi ci sono in rivolta le province. Le province che dovrebbero essere abolite, abbiamo detto dovrebbero essere 10, qualcuno dice 9, 10 i criteri, meno di 220.000 abitanti e non devono essere confinanti con l'estero, dovrebbero essere Biella, Vercelli, Massa Carrara, Fermo, Ascoli Piceno, Rieti, Isernia, Matera, Crotone, Vibo Valentia. Io l'ho citata anche ieri e le cito anche oggi, queste dovrebbero sparire. Dovrebbero sparire, io uso il condizionale, dovrebbero sparire. Il Secolo d'Italia, vicino a Fini, titola in prima pagina: province, aboliamole tutte 110. Bossi tuona: toccare le province tutte, se toccano quella di Bergamo è guerra civile. Che tra l'altro Bergamo non c'è per niente in queste 10, ma però il concetto è: attenzione ad estendere a questa idea di abolire tutte le province. A Vibo Valentia scrive La Stampa, pagina 7: mamma mia, adesso torniamo con Catanzaro, il vicepresidente non si dà pace. E dice: mamma mia, torniamo con Catanzaro. Si tratta di una misura demagogica perché il risparmio è minimo. A Biella, noi cornuti e mazziati. Attenzione, c'è una clausola che è questa: non vengono abolite le province che hanno un confine con l'estero. A Vercelli che si stanno inventando. Vercelli, che è una delle 10, cari cittadini di Vercelli, forse ci tenete la vostra provincia, si stanno inventando che il Monte Rosa, che insiste sulla provincia di Vercelli, ha un tratto di confine con la Svizzera. Allora, gioco facile per i vercellesi, scrive a pagina 7 Teodoro Chiarelli, mentre a Biella non ce la fanno, mentre a Vercelli invece tirano fuori questo confine labile o no con la Svizzera. Qualcuno a Roma ha fatto notare che non c'è una strada, non c'è una linea ferroviaria, neppure un sentiero che dal territorio di Vercelli conduce alla Svizzera. E allora, il confine acclarato c'è oppure no? È acclarato questo confine oppure no? Su questa parola, siete acclarati, cittadini di Vercelli? Se siete acclarati con la Svizzera, forse vi salverete. Se non siete acclarati con la Svizzera, costruite un sentiero, togliete qualche albero dal bosco del Monte Rosa, andate lì, fate un sentiero, inventatevi una carrettiera, magari vi salverete perché avete il confine con la Svizzera. Io ci sorrido un po', ma in realtà il mio pronostico, per quello che valgo, cioè poco più di zero, e poi se perdo questa scommessa al primo ascoltatore che mi scrive gli offrirò un caffè, il mio pronostico è che di queste province non ne cancelleranno nessuna. Volete una prova? L'articolo migliore di commento della manovra è oggi ad Alberto Signore a pagina 6 del Giornale, Che cosa racconta D'Alberto Signore? Racconta che Berlusconi e Tremonti, che tutti dicono, allora litigano o non litigano, Berlusconi ha fatto il portavoce di Tremonti oppure c'è sintonia? Verderami sul Corriere scrive: hanno fatto il gioco dei due poliziotti, no? Il poliziotto cattivo e il poliziotto buono, il cattivo Tremonti che taglia e il buono Berlusconi che dice: vedete, però non vi ho tolto le tasse, sembravano Starsky e Hutch. Allora D'Alberto Signore racconta una cena che c'è stata tra Berlusconi, Tremonti e alcuni parlamentari del PDL dopo la manovra, dopo la presentazione della manovra. È il giornale, quindi insomma abbastanza vicino a Berlusconi. La cena a porte chiuse coi parlamentari del PDL. Allora, intanto i siparietti. Giulio mi ha spiegato più e più volte il patto di stabilità, senza mai soddisfarmi, dice il cavaliere. È totalmente asessuato, si inserisce la Armosino, che è una parlamentare, tra le risate, col premier che scherzando minaccia di denunciarla ai probi viri del PDL. Poi, ecco l'ironia. Prima di arrivare alle province, era una cena goliardica. Finalmente, sulle escort, finalmente Berlusconi dice: ho capito cos'è una escort, una mignotta che parla inglese. E poi Berlusconi ha ironizzato sul tetto alla tracciabilità dei pagamenti. Abbiamo deciso la soglia dei 5.000 euro, così ci possiamo pagare le mignotte. Era una cena appunto goliardica. Ma ecco qui la notizia sulle province. Cosa avrebbero detto Berlusconi e Tremonti su questa, sulle province? La notizia del taglio di 10 province è una notizia falsa. Avete sentito? In questa cena è una notizia falsa. D'altra parte, avrebbe detto Tremonti in questa cena, siamo stati vittima del tradimento di alcuni uffici che hanno volutamente messo in giro false anticipazioni della manovra. Secondo, dunque, il resoconto del giornale, a questa cena Berlusconi e Tremonti hanno detto: tranquilli, il taglio delle province è una notizia falsa. Intanto a Roma arriva la tassa sul soggiorno, cioè la manovra prevede questo: andate a Roma, dovrete pagare una tassa negli alberghi, che ne so, chi spende 300 euro a notte avrà 10 euro di tassa di soggiorno, come a Parigi e New York. Lo scrive il Messaggero, ci punta molto, arriva la tassa di soggiorno come a Parigi e New York, a pagina 5 il sindaco Alemanno dice: giusto così. E poi c'è tutto il tema, allora, e Tremonti e Berlusconi, era la manovra di Tremonti o è la manovra di Berlusconi? Hanno tentato di farmi fuori, i sospetti del cavaliere Claudio Tito su Repubblica. I sospetti su chi? Poteri forti, Tremonti e Lega. In realtà il Foglio dice: il cavaliere Tremonti si mostrano uniti e fieri contro la speculazione. Brunetta fa un'intervista sul Sole 24 Ore a Davide Colombo, dice: sono il più grande sostenitore della manovra. E su Repubblica invece c'è scritto: hanno cercato di bloccare la rivoluzione dell'amministrazione pubblica di Brunetta, e Brunetta ha detto in Consiglio dei Ministri: mi dimetto. Insomma, non si capisce più niente. Se sono ma sono tutti retroscena, no? Litigi, non litigi, dato di fatto che la manovra c'è. Il dato di fatto è anche questo: io seguo tutti i giorni la lista Falciani, l'abbiamo sentito, questo Hervé Falciani, dipendente dell'HSBC a Ginevra, ha trafugato la lista dei conti esteri. Ci sono 7.000 circa italiani, conti in Svizzera, in Lombardia 2 correntisti su 3. Si sa qualcosa di più del tesoro da 7 miliardi di dollari trovato nella lista Falciani a Ginevra, e che è in mano alla Guardia di Finanza, alla Procura di Torino. Chi c'è degli italiani? Non i nomi, ma il 63% sono conti della Lombardia, l'11% del Lazio, il 7% del Piemonte, sono soprattutto imprenditori, il 51%, ma ci sono anche un paio di giornalisti. Professionisti come avvocati, notai o medici, il 14%, dirigenti, l'11%, persino le casalinghe, il 15% di persone che hanno il conto sulla lista Falciani sono casalinghe, tanto che il Messaggero lo mette in prima pagina, spuntano le casalinghe prestanome. Eh sì, dai, più prestanome, non me le vedo le casalinghe che mettono magari a insaputa dei mariti, mettono da parte e poi vanno alla filiale del CSBC di Ginevra a mettere i soldi, hanno dei gruzzoloni, no, forse saranno più prestanomi. Il 15% delle persone che hanno conti in Svizzera, in questa lista Falsenil, il 15% di 7.000 sono casalinghe. Beh, però interessante. Casa e potere. Mastella comprò casa coi soldi dell'Udeur. È quello che pensano i PM, lo leggo sia su Repubblica sia sul Fatto con Marco Lillo. Mastella, soldi Udeur per le case di famiglia. Questa è l'accusa della Procura della Repubblica di Napoli col PM Francesco Curcio, che vuole vedere che come ha acquistato alcuni immobili Mastella, che dice mi vogliono discreditare, e intanto pensa, o meglio non lui ma il produttore dell'Isola dei Famosi, dice mi piacerebbe avere Mastella all'Isola dei Famosi. Un po' insomma, vabbè, faccio questo collegamento un po' un salto senza rete. Un'altra vicenda che trovate sviluppata e che è giudiziaria ma non solo è la vicenda Callisto Tanzi, come abbiamo sentito, e addirittura l'apertura per esempio per il Quotidiano Nazionale, io l'edizione Il Giorno, stavolta paga lui, vale a dire Callisto Tanzi con la foto, condannato in appello, confermati 10 anni. Si tratta di che cosa? Non il processo sulla bancarotta Parmalat da 14 miliardi di euro, ma come scrive Luigi Ferrarella sul Corriere, in questo caso il dibattimento milanese ha oggetto le false informazioni diffuse per anni al mercato, tali da ingannare l'orientamento degli investitori. Tanzi era già stato condannato in primo grado a 10 anni, è stata confermata in appello a 10 anni, ma la differenza è che rispetto al primo grado, dove non era stato condannato a restituire nulla, ora invece è stato condannato a restituire denaro a 32.000 risparmiatori. Lui ha detto mi aspettava addirittura una riduzione della pena, qui invece me l'hanno confermata, e anche il dover risarcire 32.000 imprenditori. Stavolta paga lui, condannato a restituire 100 milioni, ma pagina 21 della Stampa, i legali dicono tranquilli, è nullatenente, non caccerà un euro, non pagherà un euro. Non andrà neanche in carcere, insomma, tra acciacchi, età, eccetera. Crack Parmalat, l'amara vittoria dei risparmiatori sulla Stampa. Paolo Colonnello, condannato a restituire 100 milioni, ma non pagherà nulla. Voglio andare alle segnalazioni conclusive, sono due, riguardano due donne. La prima, Elisabetta Gregoraci, che ieri tutti i giornali hanno riportato questa intervista diva e donna, nella quale ha detto da quando ci hanno sequestrato lo yacht, mio figlio Nathan Falco piange e sente la mancanza della sua cameretta bianca. Mio figlio e lo yacht, quella frase è inventata. Flavio Briatore deve intervenire sul giornale con Valeria Braghieri, dice quell'intervista è volgarmente inventata. Abbiamo querelato diva e donna, sicuramente è stato un momento difficile, mia moglie ha perduto anche il latte per allattare il figlio Nathan Falco, doveva averlo 4 mesi, invece a 2 mesi le si è bloccato il latte. Certo, non è un dramma, c'è il latte artificiale eccetera, però la situazione è sicuramente stata di tensione, 15 finanzieri sono arrivate a sirene spiegate eccetera, lei ha dovuto abbandonare la nave in fretta, la yacht in fretta e furia col bambino, ma questa cosa che il bambino piange da quel giorno perché gli manca lo yacht è totalmente inventata, è una volgarità dell'informazione italiana. A proposito di volgarità, che ha combinato, io l'ho vista da ieri questa notizia, ma poi era un po' sparita, che ha combinato Carla Bruni, la moglie di Sarkozy, la Premier Dame. È spuntato su YouTube un vecchio filmato nel quale parla in maniera sguaiata e volgarissima di sesso. La frase più gentile, tutti dicono, i giornali non capisco perché, non hanno il coraggio di ripetere queste frasi, l'unico che lo fa è il Messaggero. La frase più gentile che possiamo riportare che dice Carla Bruni in questa cosa è come tradurre in italiano, inglese e tedesco con la voce roca e l'accento perfetto, mettimi un dito nel... mi fermo qui. Ovviamente quando è rispuntato questo video vecchio di quando lei faceva l'attrice, di quando insomma non era la Premier Dame, poi è scomparso. Pressioni dell'Eliseo, pressioni di Sarkozy, non si sa. Il regista il regista Casal ha detto: sto cercando di distribuirlo in qualche modo. Intanto lo mette su YouTube e misteriosamente scompare. Lui lo rimette su YouTube e misteriosamente riscompare. Comunque c'è questa Carla Bruni che poi illustra la guida internazionale del sesso in 7 lingue tirata fuori dalla borsetta. Carla Bruni in versione scandalosa scuote la Francia e irrita Sarkozy. Il video censurato spunta su YouTube. Come quella frase, mettimi un dito nel... Tradotta in varie lingue, Carla Bruni ci dice come si dice in italiano così, in inglese, in francese, in altri modi.